vide mai più barbaro pensiero covare in sen di padre? E più incostante l'infido annidar di donna? Folle ben che in donna crede fede trovare, dove incostanza è fede?